Radio 24. Libera la voglia di fare. I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci cari ascoltatori, eccoci qua per questo lungo aperitivo affettuoso, un aperitivo punto di dolce, punto d'amara, come era vecchio il punto MS piemontese, ma io Torino sono, vi abbraccio, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast a tutti e vi dico di che cosa parliamo, ma dopo aver esteso l'abbraccio a tutti i compari dei conti della Belva, Mario Seminerio, e per telefono collegato con noi sono anche... Ciao Carlo Alberto Carnevale Maffè. E anche... Buongiorno, oggi sono collegato anch'io fin dall'inizio. Ma che bello, Renato, avervi tutti insieme, Renato Cifarelli, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, siamo qui come delle palle appese all'albero di Natale. No, quello è il resto dell'informazione italiana. No, le palle appese. Sì, ecco, sì, quello è un pochino però il senso, sì. Noi vi siamo un pochino così distaccati dai rituali natalizi, ma ci perdonerete per questo. Di che cosa parliamo in questa trasmissione? Per indurvi a telefonare 800 24. Lo dico ai collegati telefonici, non respirate come dei draghi perché sennò ai nostri ascoltatori saltano. Sputate veramente fuoco. Esatto. Allora iniziamo naturalmente con neanche il naso, grazie. Sembriamo una banda di... La grande dote del tasto mute, cioè, sia con voi. Una banda di apprendisti. È in montagna, ragazzi, in montagna. Dopo anni che facciamo questa trasmissione, una banda di apprendisti. Cioè neanche dei liceali nella gita del... Vabbè, detto questo, cari ascoltatori, vediamo se riusciamo a rimanere seri. Allora, per chiamarci 800 24 00 24, gli sms, sapete il numero, 349 238 6666. E iniziamo come sempre facendo il punto della settimana con Mario Seminerio. È un punto della settimana che ha, diciamo, alcuni sviluppi interessanti, non tanto per dati macro, ma vedrete, dall'accordo sulla Brexit, da sviluppi sulle vicende bancarie italiane. Quindi faremo un po' di punti, dibattito politico italiano con esponenti politici e di grandi partiti che si dilettano in trovate che meritano un giudizio e magari anche un intervento da parte vostra. Dopodiché iniziamo con un blocco dedicato all'e-commerce, visto da due punti di vista. Il primo è cosa succede adesso per Natale, quanti di voi tentano di far innalzare la quota dell'e-commerce italiano, che resta sì significativo ma ancora troppo basso. Vuol dire che diffidate, e diteci perché, se diffidate invece di utilizzarlo come il canale via via preminente delle vostre scelte. Ma dall'altra parte ci porremo anche un problema, visto che è il paese del dibattito sulla web tax e della fantasia onirica dei politici. Siamo arrivati al punto che alcuni dicono che oramai bisogna chiedere ad Amazon gli stessi impegni delle poste, e allora ci porremo il problema: ma perché non fare un po' il contrario? Perché non chiedere magari alle poste di essere efficiente come Amazon? Ma davvero però, visto che ci sono anche in quel caso esponenti politici, sostenitori della web tax, ma sostenitori di una specie di svolta regolatoria per cui bisogna combattere comune per comune i giganti del web americano, vedremo che cosa ne pensate. Avremo con noi su questo un commissario della G-Com, Antonio Nicita, con cui affrontare dal punto di vista regolatorio questa specie di accostamento che ci lascia un po' perplessi. Dopodiché un quarto d'ora su le novità deliranti, devo dirvi, che anche questa settimana ci sono nella decretazione e nella regolamentazione fiscale. Vedrete. Non sto parlando solo del fatto che è stato un po' il centro della presa per i fondelli della settimana, cioè che la tanto annunciata fine agli studi di settore e la sostituzione con gli indici di affidabilità fiscale era naturalmente una frottola, perché gli studi di settore restano vigenti per tutto il 2018. Quindi viviamo in un paese in cui chi ha speso soldi per mettersi in regola col fatto che la tassazione dei redditi d'impresa in questo 2017 che finisce si facesse con l'IRI, ha speso i soldi e l'IRI non ci sarà, e quindi è una doppia fregatura. Il compenso, chi ha creduto che davvero sparissero gli studi di settore, invece faccia i conti col fatto che restano. Questo è lo stato fiscale. Ma ce ne sono di altre nelle norme, e quindi passeremo un quarto d'ora di amarezza con il nostro amico Argiolas dalla Sardegna. Dopodiché andiamo a un tema roente: le molestie sessuali sul posto di lavoro pubblico e quello privato. Sapete che si sta discutendo del fatto di rendere la molestia ragione di licenziamento nel lavoro pubblico. Nel frattempo avvengono vicende paradossali come quella del Consiglio di Stato Bellomo, che alla testa di una scuola per magistratura imponeva codici scritti alle sue borsiste su quanto doveva essere corta la minigonna, il colore delle calze, e si doveva dire a lui il fidanzato, e però nel frattempo non lo licenziano. Questo per dirne un po' come vanno le cose in Italia. Ma la domanda è: anche nel privato bisognerà immaginare qualche norma diversa, qualche cosa? Ecco, ne parleremo con la responsabile dei centri ascolto di violenza sessuale della UIL, e ne parleremo con una docente di diritto antidiscriminatorio, per capire che cosa cambiare. Ma a questo cosa aggiungere ancora, Carlo Alberto? Voglio parlare dell'intervista di Giovanni Pitruzzella, che è presidente dell'Antitrust, che stamattina sul Corriere difende i monopoli. Questa è la cosa interessante, ovvero il monopolio della proprietà intellettuale. È strano vedere il presidente dell'Antitrust che si scaglia contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, che ricordo sono una forma di monopolio legalizzato concesso agli autori, agli editori, per sfruttare le opere dell'ingegno. Ciò detto, l'altra cosa interessante è che l'antitrust dice sostanzialmente che i giornali dovrebbero essere pagati proprio da Google e Facebook, perché ne sfruttano le informazioni invece di pagare i giornalisti. È una posizione molto interessante, che ovviamente ha qualche fondamento, sia chiaro, ma è per me abbastanza esiziale vedere che chi è pagato per fare gli interessi dei consumatori, quindi per lottare contro i monopoli e contro le rendite, le estrazioni di diritti economici da rendite, in realtà sta facendo implicitamente il contrario, sta difendendo i titolari di proprietà intellettuale contro l'evoluzione del dibattito scientifico e giurisprudenziale sul tema della proprietà intellettuale, proprio profondamente cambiato con gli open data, con i diritti di sfruttamento liberi. Ecco, questo vedere che la nostra antitrust fa una battaglia così di retroguardia, anche se fondata, sia chiaro, se i punti da cui muove Pitruzzella sono anche condivisibili, ma le sue proposte sono quantomeno bizzarre. Quindi non so, vi lascio questa riflessione: vedere un antitrust che di fatto in Italia sta difendendo però, i monopoli editoriali. Però fai un esempio della proposta che fa, per chi non l'ha letto, e di perché è bizzarro. Ma perché sostanzialmente dice: dobbiamo rafforzare i diritti, esatto, degli editori contro Google, che li propone pubblicamente su internet. Allora, diciamo così, è in atto, e di questo anche è ispirata la campagna sui famosi giganti del web. Dopo anni di pressione da parte dei gruppi editoriali italiani, io la dico in chiaro però perché i nostri ascoltatori non lo sanno, una specie di momento apicale dello sviluppo di questa campagna, perché per anni gli editori lo hanno detto in tutti i loro convegni, in tutte le loro audizioni e così via, senza trovare grande ascolto, magari anche raccogliendo qualche sorrisetto sul fatto che i bilanci dei loro gruppi editoriali rispecchiavano piuttosto non tanto la forza impropria di altri quanto la debolezza propria nel non saper interpretare l'evoluzione del prodotto. Adesso siamo arrivati a una svolta però, perché tra Web Tax e l'eco che viene restituito dalla politica in campagna elettorale, bene, questa volta l'impressione è che ce la fanno. Io metto in questo sviluppo, non se ne abbia Pitruzzella, anche l'intervista di Pitruzzella di oggi. È evidente che gli editori italiani stanno raccogliendo, non so come la pensi tu Carlo Alberto, quello che per anni avevano chiesto ma non avevano ottenuto. Lo dico in termini di attenzione, non sto dicendo di un improprio trade-off, però insomma, non hai questa impressione? No, questa certezza evidente. Chi è più avanti, e parlo di Mediaset serenamente, si sta muovendo per saltare su un carro che sa di non poter fermare, e quindi il ritrovato spazio di accordo con Viventi sposta Mediaset sul territorio. Diciamolo chiaro ai nostri ascoltatori. L'avevamo detto due anni fa. Mentre gli editori tradizionali, che questo passaggio non sanno farlo e non lo faranno, chiedono difesa dalla politica. Cito un'altra cosa di Pitruzzella che va detta, perché qui invece è un errore proprio tecnico. Lui dice che i grandi gruppi del web fanno soldi coi dati. Non è vero! I soldi li fanno col vecchio metodo dei media, che è l'attenzione umana. I dati sono solo un mezzo, non sono un fine. Nessun gruppo media vende dati. vendono l'attenzione umana tramite forme pubblicitarie. Il fatto che Pietrozella da solo non capisca l'elemento di base fondamentale su cui funzionano aziende come Google e Facebook mi preoccupa. Beh, perché vuol dire proprio che è spinto da... Pietrozella traduce quello che ha letto e qualcuno gli ha spiegato male, sul fatto... Lost in translation, se posso dire. Lost in translation. Va bene, Renato, allora tu che dici invece? Ma no, io invece dico che stiamo sempre in campagna elettorale. Adesso questa settimana vedo una situazione in cui, non so se li avete letti, i tweet di Calenda e Renzi. Come no? Calenda ti tira indietro, Renzi gli dice parliamone. Allora, a me questa cosa... Berlusconi fa scrivere che Calenda potrebbe essere nella sua lista di come premier, sì, diciamo, autonomo, autorevole, indipendente. Io sono un utilizzatore dei social network dalla prima ora, però mi sembra che esista anche il telefono, insomma, per fare. ma soprattutto pare che nel tweet in cui Renzi risponde a Calenda, Renzi dice: come sai, Carlo, di deficit in Consiglio dei Ministri parlavano alcuni ministri, disse quello che voleva il deficit PIL al 3% per una legislatura intera. Al 2,9, scusate, bisogna stare, diciamo, le cose 2,9 esatte. 2,9 fisso, periodico, eccetera, vabbè. Ok, torniamo tra un minuto. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presento. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Disse Cesare Damiano col suo emendamento che vuole mandare a casa a Tito Boeri, presidente dell'INPS, più o meno. Vabbè. Mario. Sì. No, io volevo segnalare che tra tutte le cose così sfiziose della settimana, la Commissione Europea, che come sapete è questo covo di serpi che attentano alla sovranità italiana della Repubblica Popolare Democratica Italiana, praticamente deferirà l'Italia alla Corte Europea di Giustizia perché la pubblica amministrazione italiana continua a violare sistematicamente la legge, la normativa sui termini di pagamento alle imprese, perché noi siamo ancora in una media di 100 giorni. Quindi qualcuno deve assolutamente comprarsi delle calzature adatte e iniziare ad avviarsi verso il famoso santuario. Ha risolto il problema. L'hanno risolto nell'estate 2014, prima di settembre. Esatto. La Vespa, ci fu un solenne impegno che se non era risolto entro settembre di quell'anno andava, appunto, come dicevi tu, al Monte Senario. Al Monte Senario. È risolto. Ma come osano? Ma come osano questi europei mettere in dubbio la parola del Presidente del Consiglio Renzi, l'adempimento di Stato, e con tutto che hanno mobilitato anche molte risorse? Eppure è come esatto, dice Mario. Esatto, esatto. Poi, altre cose, questa settimana abbiamo il candidato premier di quello che secondo i sondaggi è il primo partito italiano che, andando in una trasmissione televisiva, ha ritenuto di dover fare uno spot a favore di una banca online privata, dicendo che si tratta della terza banca online al mondo. Al mondo! E ovviamente non è così, pur con tutto il bene che voglio, diciamo, al personale di quella banca e di quel gruppo, ma non è dato sapere per quale motivo il candidato premier del primo partito italiano, secondo i sondaggi, vada in TV a fare uno spot per una banca privata italiana. E perché nessuno glielo fa neanche notare? Perché il pubblico di simpatici e gioviali manichini presenti nello studio di Giovanni Floris ha applaudito in maniera monocorde, come sempre fa a intervalli regolari, e perché Giovanni Floris medesimo ha gratificato il candidato premier di uno dei suoi famosi sorrisi benevolenti. Questi sono i misteri della politica italiana che non riusciamo a capire. Tra l'altro, però voleva forse esprimere l'intenzione sua e del movimento di dare una mano al sistema bancario, no? No, ma ha detto: bisogna sganciare la politica dalle banche, e per fare questo noi, diciamo, sosteniamo questa banca che non ha sportelli, ma tu metti il visore ed entri in banca e così sganci la politica dalla banca. È meraviglioso tutto ciò. Dopo aver toccato il fondo cominciamo a scavare furiosamente a mani nude. Poi, altra cosa, la Brexit. Dunque, c'è stato ieri mattina alle 7:20 la fumata bianca, nel senso che per manifesta disperazione Theresa May ha accordato, ha ceduto a tutte le richieste dell'Unione Europea, inclusa l'assenza di confine una fisico, capitolazione totale tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, non è, attenzione, non è un protocollo operativo, perché nessuno sa un accidente di che cosa vuol dire allineamento regolatorio tra l'Unione Europea e l'Irlanda del Nord, nessuno sa un accidente, però questo è servito e servirà per avviare dalla prossima settimana i colloqui per permettere al Regno Unito di avere un periodo di transizione, verosimilmente di un paio d'anni dopo la scadenza della Brexit al marzo 19, 2 anni oltre quella scadenza, durante i quali si negozierà, durante i quali resteranno in vigore le norme alle quali attualmente il Regno Unito è assoggettato, e durante questo periodo si negozierà il famoso trattato di libero scambio tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Faccio una risatina, perché io considero molto importante comunque questa, tra virgolette, capitolazione. Lo dico, non voglio sembrare il leone che ruggisce di fronte alla debolezza britannica. Io dico che è anche nel loro interesse, perché lo penso, perché innanzitutto il punto su è il fatto di aver accettato l'idea che o si chiudeva questo fine settimana l'intesa preliminare o non si parlava, o non si iniziava fino a febbraio di parlare poi della parte fondamentale, cioè qual è il regime commerciale di scambio di beni e servizi, che è il punto fondamentale per capire se l'Unione, se il Regno Unito si fa malissimo a breve in caso di mancanza di assenza poi oppure no. E il fatto però che abbiano accettato questa idea è una cosa positiva, perché significa accettare l'idea che c'è una trattativa in cui c'è uno più forte e uno, ma per gli effetti degli scambi e delle conseguenze simmetriche che ci sono in mancanza di accordo, è ovvio che lì si concentra più dei guai, mentre quella europea si spalma, per così dire. Detto questo, è utile secondo me che abbiano capito questo a May. È fondamentale che dal punto di vista dei diritti accettino l'idea nel loro stesso interesse che tutti i diritti in via di maturazione, welfare, sanità, lavoro, cittadinanza, restino quelli attuali e che verranno rispettati anche se non arriveranno a piena maturazione all'atto dell'uscita. È fondamentale, non dobbiamo introdurre discriminazioni per provenienza nazionale nei nostri rapporti reciproci e nei diritti reciproci. È fondamentale che nei diritti reciproci la Corte britannica siano impegnate a tenere la Corte di giustizia europea come punto di riferimento. Ci sono tante cose nella parte che riguarda i cittadini, nella parte che riguarda l'exit bill, l'hai già detto, sarà secondo me con questo schema, io con questo schema penso che salterà, Mario, perché è uno schema che porta ben oltre le due annualità di versamento dei contributi, che sono più o meno di 20 billion di sterline ogni anno, perché i programmi per esempio sessennali, in realtà chi conosce la logica dei fondi europei, non è che finiscono 2020, ci sono 3 anni successivi, quindi significa che pagano altri soldi, sì, sì, e così via, quindi secondo me pagheranno molto a lungo. Ecco, lì diventa un problema, un po' è un argomento facile per i Brexiter, per capirci, per chi vuole, per che hanno, devo dire, nel ministro degli esteri che parla tutti i giorni con un tono durissimo, cioè Boris Johnson. Ma il problema è che sai, se gli irlandesi, se il punto decisivo, diciamolo chiaro Mario, cioè la parte irlandese, quella su cui si apre la breccia secondo me, perché voi capite che Repubblica d'Irlanda, che fa parte dell'Unione Europea, e Irlanda del Nord restano con il pieno accesso dell'Irlanda del Nord all'unione doganale e al single market. Questa è la breccia vera, perché significa che è un po' complicato poi per tutto il resto fare delle frontiere, e chiederà la Scozia la stessa cosa. Questo può diventare un'arma nei mani di quelli che vogliono partitori a casa, mandare a casa la May, e quindi bisogna vedere che cosa succede. Tra l'altro Ruth Davison, che è la leader conservatrice scozzese, che è la persona che sta danneggiando lo Scottish National Party, nel senso che le drena consensi, e però è compagna di partito della May, ha già detto quello che tu accennavi. Cioè, completamente in linea con Nicola Sturgeon, cioè esatto, con la Premier. Esatto, se britannica. C'è un allineamento regolatorio che vuol dire che si mantiene mercato unico e o unione doganale, deve valere per la Scozia, siccome gli unici che hanno votato a favore dell'uscita manifestamente sono England senza Londra e Galles, tutti gli altri hanno votato per il Remain, alla fine praticamente ci saranno famiglie che avranno la camera da letto fuori dal Regno Unito e nell'Unione Europea e il bagno fuori dagli accordi. Cioè è un po' complicato, per questo dico, cari ascoltatori, sì, vittoria, però come regolare questo pasticcio che attiene fondamentalmente poi alla parte più delicata del negoziato, cioè quella commerciale, del regime degli accordi commerciali, boh, perché su questo secondo me è possibile sia che salti il governo May, sia che, paradosso, per esempio, in Irlanda del Nord sono favorevoli a tenere le cose come stanno, sia quelli che nel voto hanno invitato a votare per Brexit, sia quelli favorevoli al Remain, cioè i nazionalisti irlandesi senza cui voti il governo May non sta in piedi, sono per questa soluzione esattamente con quelli che li odiano in Irlanda del Nord. Questo per dire che la cosa è complicata, la May è in una debolezza micidiale. Ieri Philip Hammond, il cancelliere, è riuscito a fare un'altra delle sue, cioè in un'audizione parlamentare, dire che il problema della bassa produttività britannica si deve ai disabili che sono stati messi al lavoro. Ecco, un governo in cui succedono ogni giorno cose di questo genere, non lo so quanto durerà, però il passo avanti c'è, apprezziamolo. Mario, vogliamo parlare poi rapidamente anche di Bitcoin, delle avventure del Bitcoin? Sì, nel senso che dopo l'annuncio di due borse futures americane, il CME e il CBOE, di partire forse con la quotazione dei contratti futures sul Bitcoin, c'è stata una levata di scudi generalizzata delle banche, maggiori banche americane, perché le maggiori banche americane non intendono entrare in questo discorso. Spieghiamo per quale motivo. Queste due borse futures americane operano mediante clearing house, cioè cassa di compensazione, che è la struttura dove tutti i partecipanti versano delle quote che servono, in caso salti qualche operatore, a onorare la consegna dei contratti. Qual è il timore delle principali banche americane? Che con l'arrivo dei futures sul Bitcoin, lungi dall'avere una posizione calmieratrice da parte di chi venderà Bitcoin, il mondo si metterà lungo, quindi comprando a leva il Bitcoin. E siccome non ci sono venditori naturali di Bitcoin, a parte i miners, cioè quelli che realizzano i nuovi Bitcoin mediante apocalittico consumo di energia elettrica, questo mercato resta strutturalmente squilibrato. E siccome per adesso non è un problema, perché ha una capitalizzazione molto piccola dell'ordine dei 250-280 miliardi di dollari, tutto il Bitcoin, ma quando partiranno i futures questa capitalizzazione esploderà. Se il mercato è solo da una parte, quando arriverà il collasso, noi rischiamo che qualche banca centrale sia costretta a tagliare i tassi per evitare che succedano casini. Quindi meditiamo su questa cosa, lo dico soprattutto agli evangelizzatori del Bitcoin, quelli che da andamenti parabolici a palo della luce sono convinti che si celi la verità dietro quel grafico. Non è esattamente così. Andamenti parabolici a palo della luce. Io trovo che la capacità di Mario di esprimere il suo ottimismo antropologico innato a volte veramente la capacità poetica. Torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qui, tornati in studio. Mario, Oscar, e collegate con noi Carlo Alberto e Renato. Renato. Allora, andiamo subito. Siete già tutti in atmosfera natalizia, alberi da prenderci gli ornamenti e naturalmente acquisti. Che fate questa volta? Lo innalzate e modificate il vostro comportamento di acquisto sulle piattaforme digitali oppure aderite alla grande battaglia della politica e dei regolatori che dicono che sono delle improprie espressioni di uno stato di illusori aggiratori di norme, di interessi fiscali? La sto facendo un po' semplice, Carlo Alberto, però la discrasia tra un ritardo che dovremmo colmare e i toni che usano la politica e i regolatori mi colpisce sempre di più, non so a te. Colpisce noi tutti, perché la prassi quotidiana della gente va in quella direzione lì, e senza diciamo strafare, però dà un segnale chiaro di cambiamento. I politici sono a difendere, proprio ero l'altro giorno a Roma a un dibattito sul tema, sono a difendere i loro i loro elettori tradizionali, cioè le associazioni degli esercenti, il mondo tradizionale della distribuzione che li supporta e fa lobbying. Però non è che ci siano solo gli over the top, perché poi il commercio digitale, gli acquisti digitali riguardano imprese, piattaforme, idee, eccetera eccetera, che sono anche italiane. Abbiamo con noi l'amministratore delegato di Price, Pietro Scott Giovane, e voglio dire, e quindi, caro Alberto, da questo punto di vista, com'è che la politica non lo capisce secondo te? Non capisce che il fenomeno è anche una straordinaria opportunità per l'Italia e per l'innovazione italiana. In effetti qui Pietro ci può raccontare di come il grande sfidante di Amazon, anzi l'Amazon italiana su alcuni segmenti di prodotto, in particolare gli elettrodomestici bianchi, tutti gli acquisti che superano i 300 euro e che hanno bisogno di installazioni domestiche, non è un over the top americano, ma è una sana e tradizionale azienda italiana fondata a Milano da degli italiani, quotata in borsa in Italia, e che sta facendo un gran bel lavoro. Ed è per quello che abbiamo invitato Pietro Scogliovane a parlarci di come cambiano gli atteggiamenti degli italiani davanti all'e-commerce, in particolare davanti al Natale, ma di come ne cambia soprattutto quel pezzo di e-commerce che sta superando le barriere della fiducia, quello che comporta per esempio un servizio domestico, non solo una consegna, no? Ma un'installazione, una cura, una manutenzione, perché è stato il segmento più arretrato che finora ha dato segnali di fragilità e che invece sta sviluppandosi notevolmente. Quindi volevo chiedere a Pietro, ci fai una fotografia dell'evoluzione dell'e-commerce in questi anni e di come si prepara la campagna natalizia per voi che state sul mercato? Beh, intanto buongiorno e grazie per avermi invitato, è un piacere, essendo io peraltro un vostro ascoltatore. Grazie. E quindi mi fa solo piacere essere. E naturalmente anche grazie perché abbiamo l'opportunità di raccontare così, in questa circostanza, cos'è l'e-commerce in Italia. L'Italia è indietro, gli americani chiamerebbero l'Italia un paese lagar, cioè in ritardo su questo aspetto apparentemente innovativo degli acquisti anche online. Di tutto quello che viene venduto nel nostro paese online oggi passa solo il 4% rispetto a Francia, Germania, la cui percentuale è intorno al 9-10%, l'Inghilterra, che in genere sul digitale è ancora più avanti, fra il 12 e il 15. È come se l'Italia fosse 5 anni indietro, è come se fosse la Francia o la Germania 5 anni fa. È altrettanto vero però che nell'ultimo anno, direi principalmente, certamente anche per la concorrenza forte che Amazon mostra sul mercato italiano, quindi questo va riconosciuto, gli italiani stanno scoprendo questa dimensione e quindi il tempo necessario perché l'Italia si affianchi, se vogliamo, ai paesi che citavo prima, non richiederà 5-6 anni, ma richiederà meno tempo. Quindi noi stiamo come paese innamorandoci dell'e-commerce e ne stiamo scoprendo tutti gli aspetti di base di questo nuovo modo di acquistare. Tradizionalmente si è pensato che l'e-commerce coincidesse con essere seduti a casa o in ufficio, identificare un prodotto online, indicare l'indirizzo, mostrare o indicare la carta di credito, dopodiché farselo consegnare dopo qualche giorno. Però questo è un e-commerce base, questo è l'e-commerce a cui tutti sono abituati e forse per alcuni anche un po' una delusione. Allora, quello che sta succedendo e quello che noi stiamo in particolare facendo è quello di individuare il bisogno del cliente che ordina da casa, ma magari non c'è all'ora in cui viene il signore che deve portare il pacco. E in quel caso non vuole prendersi un giorno di ferie per riceverlo perché magari non ha la portineria. Oppure quello che sta acquistando, per esempio un elettrodomestico, non è poi di semplice installazione o configurazione da parte dell'utente. Immaginate le smart TV di oggi che sono sostanzialmente dei computer della casa. Non si tratta solo di appendere al muro, ma si tratta anche di connettere alla rete della casa, identificare la username e password per i vari servizi di streaming e via dicendo. Ecco, questo è quello che a nostro parere rappresenta l'evoluzione dall'e-commerce all'e-service. E Price fa questo, cioè individua nel bisogno del cliente italiano, essendo noi italiani, quindi è più facile per noi capire le dinamiche, le specificità del nostro consumatore e quindi offrire non solo la più ampia gamma possibile di prodotti al prezzo migliore, perché l'online è sempre meglio dell'offline, ma soprattutto identificare quei servizi che permettono al cliente di comprare un prodotto difficile, come potrebbe essere un frigorifero, ma online, perché qualcuno viene a casa da parte di Price, ti installa tutto e se non ti piace il servizio voti con una stelletta, oppure se hai apprezzato il servizio indichi 5 stellette e l'installatore quindi fa parte dei top installers. Ecco, questo elemento è molto interessante, perché l'e-commerce cambia proprio le abitudini non solo di acquisto ma di servizio degli italiani. Penso a quello che è successo anche in un altro segmento che voi seguite meno ma che si sta sviluppando, quello dell'abbigliamento, dell'accessorio, penso a quello delle calzature, no? La logistica inversa, cioè il fatto che ti venga consegnato a casa un prodotto e che tu possa restituirlo se non va bene, ha rivoluzionato anche lo scetticismo di molti italiani sul bene appunto da provare, da verificare in casa, da provarsi addosso, oppure appunto come nel vostro caso bene da configurare in casa. Che cosa è dovuto cambiare nella logica vostra, diciamo, di operatori dell'e-commerce per venire incontro a questo muro di sfiducia che ha dovuto essere superato? Con che cosa siete dovuti intervenire per poter entrare in casa e gestire la logistica? Ma c'era una prima preoccupazione nella testa del consumatore fino a qualche tempo fa, che era legata ai sistemi di pagamento. Una preoccupazione nel mettere online il numero della propria carta, e quindi la prima cosa che noi abbiamo fatto è quella di identificare dei negozi presenti già nelle varie città italiane, circa 135, e a uno a uno identificare chi voleva far parte del nostro network, e quindi oltre a continuare a fare il proprio mestiere, cioè di esercente, ma di al tempo stesso avere più traffico in store, cioè avere clienti che per conto di Price passassero da quel negozio e potessero prendere il proprio prodotto e soprattutto pagare eventualmente in contanti, perché questo era, diciamo, il modo per essere meno preoccupati relativamente alla transazione online. La seconda cosa è quella appunto che si citava prima, cioè comprare dei prodotti che sono complessi. Spesso sei abituato ad andare in un negozio fisico ad acquistare, o tradizionalmente hai fatto così, qualcuno ti ha aiutato a scegliere, ecco, però la nostra abitudine adesso andando nei nostri negozi fisici è quella di essere un po' meno seguiti, un po' perché gli spazi si riducono, insomma c'è anche meno offerta, e invece online la nostra proposizione è stata quella di dire: bene, io allora ti aiuto quando hai comprato nel portarti il prodotto a casa, installartelo, e se non va bene portartelo via. E queste due gambe hanno aiutato a introdurre un livello di confidenza rispetto al consumatore, circa queste due specifiche aree, e per noi è stato forse l'elemento vincente. Ma questo richiedeva una mentalità da chi conosce l'italiano, il bisogno del consumatore italiano, e poi una soluzione sviluppata da italiani, perché come ricordava poco fa Carlo Alberto, noi siamo un'azienda puramente e strettamente italiana, peraltro che essendo italiana e basata in Italia naturalmente sviluppa tutte queste soluzioni acquisendo aziende italiane che hanno innovato. Noi abbiamo per esempio acquisito della partecipazione in alcune aziende che hanno iniziato a innovare nel settore della vendita delle caldaie online, che non è esattamente la cosa più semplice da fare, oppure aziende che aggregano operatori, installatori sul territorio, mettendoli loro in una condizione di lavorare di più attraverso la nostra piattaforma. Il lavoro, Pietro, mi interessa molto questo tema, perché ho visto per esempio i picchi di domanda di operatori di logistica, di servizio proprio per Natale, e non si trovano abbastanza operatori. È una risposta importante da dare a chi pensa che l'e-commerce cancelli i posti di lavoro. In realtà li trasforma, e trasforma gli operatori da gestori di punti vendita fisici a operatori di logistica e di servizio. Ci puoi commentare su come sta andando questa campagna natalizia e su come cambiano proprio i profili delle persone che vengono coinvolte nel mondo dell'e-commerce in Italia? Allora, da un punto di vista di rete logistica, per esempio noi abbiamo investito in un'azienda che opera come nostro partner affinché fosse in grado di crescere maggiormente, quindi investendo nell'azienda affinché potesse comprare più mezzi, più spazi per poter servire più clienti attraverso anche la rete di installazione. Queste sono tutte aziende italiane, quindi il principio è quello di fare rete in un territorio fatto di imprenditori molto bravi, ma mettendo capitali a disposizione per permettere loro di crescere. Poi da un punto di vista dei consumatori, quello che stiamo osservando è che incredibilmente, lo dice anche uno come me che ha sempre avuto una certa propensione ad acquistare online, si va oltre l'acquisto del tablet, del PC oppure semplemente di un telefonino, ma adesso a Natale la gente compra elettrodomestici, compra le smart TV, cioè acquista prodotti con un prezzo molto elevato, spesso facendosi finanziare online attraverso tutti i vari provider le finanziarie online e quindi le banche online, che permettono una trasformazione di quello che è un capex, cioè un acquisto spesso che richiede il consiglio di amministrazione familiare, no? Alcune centinaia di euro, perché riguarda poi la vita familiare, quell'oggetto, e distribuirlo e spacchettarlo in delle rate mensili, in maniera tale che il costo di quel prodotto sia più vissuto come se fosse quanto paghiamo per lo streaming di Netflix, per intenderci. E peraltro con i tassi attuali questo vuol dire farlo a tassi prossimi allo zero, se non a zero. Quindi noi vediamo un'evoluzione del consumatore che acquista online prodotti particolarmente costosi o in apparenza costosi, proprio perché l'online permette il confronto, il paragone e soprattutto un risparmio importante. Va bene. Bene, solo un ultimo commento, perché ho visto anche che la gente sta scegliendo elettrodomestici online perché ha un servizio migliore, per esempio del riciclo, del recupero dell'usato, dello smaltimento. Quindi non è solo questione di prezzo, Pietro, c'è anche qualcosa di più, c'è un cambiamento di professionalità che non si trova più magari nei punti vendita tradizionali e che invece gli operatori di e-commerce stanno mettendosi proprio a offrire a chi ha preoccupazioni, per esempio appunto dello smaltimento dell'usato, penso ai elettrodomestici o lavatrici. È vero questo? C'è certamente un fenomeno, e devo dire corretto, non vale solo la nostra azienda ma vale per tutti quelli che operano come noi, un'associazione tra l'operare online e un'attenzione alla sostenibilità maggiore. E secondo me questo si è, quindi certamente per il riciclo e per il recupero dei prodotti che sono dismessi, altrimenti li troveremo bordo strada e con tutti i danni e conseguenze. C'è un tema del last mile, cioè del trasporto finale. Ci sono delle città che sono crescentemente piene di furgoncini che portano in giro i prodotti, e questa è la nuova, e questo è il filone su cui tutto il mondo della logistica si dovrà focalizzare, per evitare che le nostre città vengano diciamo riempite da camioncini che ripassano dallo stesso civico a diverso orario per spostare i pacchetti, per consegnare i pacchetti. Invece ci sarà bisogno di un'evoluzione intelligente per ottimizzare anche questo, e le nostre reti di pick and pay fanno questo in buona sostanza. Grazie a Pietro Scocchiovane, amministratore delegato di Price. Noi torniamo tra pochissimo e sarà con noi Antonio Nicita, commissario Agicom, sul tema. Ma davvero bisogna chiedere a Amazon di diventare come le poste dal punto di vista regolatorio? Ma della belva. Eccoci qua tornati con Oscar Giannino, Mario Seminerio e collegati Renato. Bravo che rubi sul tempo al nostro accademico caro Alberto, che ciao Carlo Alberto, ciao a tutti. È sul digitale ma è lento rispetto alla manifattura avanzata, quella in cui sei tu. Allora il problema, io ti, dopo quelle tue domande non troppo aggressive Pietro Scottione, se mi permetti, ma no, voglio dire una cosa, considero il fatto non te personalmente ma la categoria a cui appartiene, cioè gli accademici hanno una responsabilità. Se i politici arrivano a dire, quindi l'onorevole Boccia e tanti altri, arrivano a dire che Amazon è come le poste, e la colpa è vostra, caro Alberto. Innanzitutto è vostra, perché non avete saputo spiegare l'ABC fondamentale. Perché non può essere che davvero il dibattito pubblico italiano diventa bisogna sottoporre Amazon agli stessi obblighi delle poste. In cosa sbaglio nel dare la colpa a te? Hai troppo ragione, spiegare a Francesco Boccia i principi fondamentali dell'economia digitale è una opera improbabile. Io non voglio, no, io dico che la colpa invece non è sua, è tua, questa è tua. No, appunto, è difficile, dobbiamo studiare di più e certi studenti fanno un po' fatica, ma dobbiamo aiutarli, mi rendo conto. Ma tu come l'hai capita questa storia che bisogna che devono avere gli stessi obblighi? Com'è possibile? Ma sai, lì il tema è molto semplice, i punti sono i dati. Secondo molti politici c'è un rischio di concentrazione in mani private dei dati, in particolare del cloud. È un tema secondo me rilevantissimo da discutere a livello europeo, e il nuovo regolamento europeo, la GDPR, che entrerà in vigore a maggio del 2018, secondo me costituisce una pietra miliare su questa direzione qua, perché renderà i dati diciamo così di proprietà del loro produttore, cioè dei singoli cittadini, che obbligherà tutte le istituzioni a esporre. Quindi intanto in Europa questo tema è ben chiaro e ben affrontato. L'altro tema invece, per quello che riguarda invece i servizi, lì c'è un equivoco di fondo, cioè sul fatto che diciamo il monopolio legale concesso a un'istituzione come Poste venga comparato con ma una, vabbè, Damante, cioè, noi ci abbiamo messo decine di anni per chiedere che cadesse per esempio il monopolio della consegna degli atti giudiziari, e è arrivato a malapena adesso dopo anni e anni e anni, e questi mi dicono che Amazon è come le poste. Questo quanto questo, no, e lì probabilmente la grande visibilità mediatica di Amazon la fa apparire più grande di quello che è, perché abbiamo visto prima i dati con Pietro Scogliovane, stiamo parlando di qualcosa che non arriva al 5% dell'intero piano dei consumi italiani, quindi c'è una proiezione colossale dell'immagine di questi attori. Ma come sempre, siccome poi dietro Amazon ci sono ancora una volta gli editori, i librai, perché io poi voglio dire, faccio l'osservato, sono vecchio e vedo che quello che tu adesso stai osservando, che è verissimo, cioè la rilevanza sul totale del mercato non è tale da giustificare tutto questo, ma naturalmente l'interesse, che è quello nell'ambito di chi offre i servizi in maniera tradizionale ed è colpito quindi dalla maniera digitale che noi dovremmo incentivare invece che ostacolare, beh, quello al politico e al regolatore è chiaro. Però noi abbiamo con noi Antonio Nicita, che è commissario della GCOM, insegna politica economica all'Università della Sapienza, che ringraziamo perché è un gratitissimo ritorno. Lui è uno di quelli che accetta di considerarci come interlocutori. Grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito ovviamente. Allora, io mi sdoppierò fra regolatore e accademico, così esatto. Faccio contenti tutti e due. No, ma nel senso che io vorrei parlare con l'accademico, perché io non voglio mettere in imbarazzo il regolatore. No, ma su questo se posso, no? Cioè, certo. È uscita questa notizia, ricordiamolo, per la quale noi un paio di giorni fa l'autorità delle garanzie delle comunicazioni ha diffidato Amazon su un punto molto preciso e molto specifico, e cioè sul fatto che su una specifica attività di recapito che Amazon da un po' di tempo sta attivando assieme, diciamo così, al ricorso a soggetti terzi quali corrieri, su quell'attività secondo la legge europea e secondo la legge italiana per svolgerla è necessaria un'autorizzazione che al momento non risulta avere in Amazon e che può avere in qualunque momento entro 45 giorni al massimo facendo una domandina al Ministero che si ottiene con silenzio e assenso, e quindi diciamo non c'è nient'altro che questo. Perché questo è importante? Perché comunque in Italia l'attività dei Corrieri Espresso è oggetta a questo obbligo di autorizzazione. Quindi diciamo, da questo punto di vista, se guardiamo solo a questo segmento, quindi diciamo lo slogan Amazon come posta è sbagliatissimo, semmai è Amazon quando consegna per conto terzi prodotti che hanno certe caratteristiche ai clienti finali per conto del venditore, deve comportarsi come tutti gli altri operatori in concorrenza sul mercato, quindi non c'entra neanche il monopolio di Poste, sono i corrieri, un mercato liberalizzato, ma per essere attivo devi chiedere l'autorizzazione. Allora, se Amazon dimostra di averla, nessun problema. Se dimostra di svolgere un tipo di servizio in quel segmento specifico completamente diverso per una serie di ragioni, benissimo, ne prenderemo atto. Però non c'è questa, capisco che possa essere stato ma noi per questo abbiamo chiesto di siccome siamo combattiamo delle battaglie di imposizione generale nel merito, però... e questo è un merito che vi va riconosciuto, nel senso che proprio perché conduciamo le battaglie, cioè, abbiamo detto, spieghiamo ai nostri ascoltatori, esatto. Perché sennò abbiamo l'impressione di dare noi di voler rappresentare come se fosse un mondo di matti. No, e come vi ha detto Antonio Nicita, resta il fatto che poi possiamo avere, e noi lo abbiamo, io lo ho, il dubbio che per fare una consegna contro le tette eccetera serva l'autorizzazione eccetera, ma è diverso il fatto che finché questa è la regola, l'autorità chiama a rispetto di questa regola. Però cari politici, capisco che gli editori vi interessano in campagna elettorale, i librai, quello che volete, non dite in maniera impropria che Amazon è come Poste, perché non sta né in cielo e né in terra. Grazie anche Antonio Nicita, torniamo dopo Generale Radio. Il segnale orario vi è offerto da Rive, rassegna di enologia e viticoltura, 12-14 dicembre, Pordenone Fiere. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in studio dopo il GR, i compari dei conti della Belva, Oscar, Mario, e collegati con noi Renato. Perfetto, lo sapevo che questa volta come Formula 1 partivate entrambi. Beh, bravo Renato, non ti far fregare dall'accademico, dai, sto scherzando. Caro Alberto, no, ma io non mi faccio mai fregare, lo sai. Lo sai che per i piccoli imprenditori i mali del mondo sono gli accademici e i consulenti. Pensa un po', quando poi coincidono è veramente come fare bingo. Dai, no, oggi stiamo trattando un po' troppo male, caro Alberto. Scusa, suo fratello. No, io sono abituato. No, io trattato troppo bene Pietro, però voi avete trattato troppo bene Antonio in compenso, perché francamente che l'Agicom si metta a fare le pulci sul documentino che manca è veramente lo specchio di quest'Italia, devo dire la verità. Allora, noi devi sapere che subito dopo a commento, perché poi i tempi sono i tempi, abbiamo infatti detto non a caso l'autorizzazione, e Mario a quel punto ha aggiunto: beh sì, è un po' come gli ispettori del lavoro che improvvisamente che vanno a Castel San Giovanni, diciamo, guarda la coincidenza di stretta attualità. Ma tu guarda, passavano da Piacenza. Pare perché che Amazon sia un caporale pugliese in questo paese, avete capito? Guardate che gli ispettori del lavoro nella nostra zona, siccome ne avevano messi ai domiciliari un certo numero, adesso sono ritornati. Li ha liberati praticamente. Li hanno liberati, evidentemente avevano del tempo libero, sono andati a Piacenza. Esatto. Allora, sentiamo, c'è anche un ascoltatore, Luigi, che ci chiama dalla provincia di Roma su questo argomento. Luigi, prego. Oh. Luigi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta, io poco fa avete esposto molto bene i vantaggi degli acquisti online. Sì. E fino a qui ci siamo su certe cose. Cioè, io dato che sono nato in commercio, tessutiere, tanto per essere chiaro, non riesco a capire perché dici il vantaggio c'è che adesso ci sono i resi, d'accordo? Ma comprare un paio di scarpe che magari misura 37, ognuno c'ha un piede particolare, eccetera, se non va bene, poi che fa? Me lo rimanda indietro, mi manda al 36, oppure mi manda al 38, oppure non so, soprattutto gli alimentari che sono una cosa un po' delicata ancora. No, aspetti, perché il caso vuole, lei giustamente dice, beh, insomma, lì qui l'esperienza si può fare solo con il contatto personale nella sede commerciale. Per così. Allora, qui il caso vuole che, per esempio, di scarpe, il nostro inarrivabile poliedrico, poliutropos, al cui confronto Ulisse di Itaca era un povero educando, Carlo Alberto, anche di scarpe digitali se ne occupa in qualche maniera professionalmente. Hai sentito che cosa ha detto Carlo Alberto, il nostro ascoltatore? Ho sentito dei dubbi più classici, per quello che chiedevo a Pietro Scotione di spiegare bene questo principio, che si chiama reverse logistics, cioè logistica inversa, ovvero la pianificazione proprio rigorosa di una consegna che prevede il ritorno della merce o parte della merce, proprio che viene fornita, per esempio vengono portate a casa scarpe del 36, del 37, del 38, tu le provi, ti tieni quella che ti serve e restituisci le altre. Ed è questo che ha rivoluzionato, per esempio, gli acquisti di calzatura in Italia, e sta rivoluzionando l'acquisto anche di elettrodomestici, perché prevede che ti porti lo frigorifero e si portino a casa quello vecchio smaltendolo professionalmente. Questa è proprio una rivoluzione importante. Ho poi una cattivissima notizia io per l'ascoltatore. Molto spesso, ahimè, ultimamente la gente va nei negozi a provare le scarpe e poi le ordina online. Ma questo è, ne parlavamo anche di questo con Mario, perché il mix esperienziale, cioè quello diretto e quello online, è diventato una maniera in cui le catene tradizionali di offerta commerciale devono munirsi, perché questa cosa qui è assolutamente confermata dai fatti. Vabbè, non so se abbiamo risolto i dubbi di Luigi, e nel frattempo ci ha raggiunto Alessio Argiolas. Grazie di essere con noi, Alessio. Grazie a te Oscar, un saluto a te, ai tuoi compari e a tutti gli ascoltanti. Allora, noi le notizie grosse rilevanti questa settimana, cioè la fregatura degli studi di settore che restano, l'abbiamo già annunciata e commentata. Oggi, per tutti gli accaniti che vogliono farsi male nello spirito del Natale, per capire che lo spirito del Natale lo Stato fiscale non lo conosce, posso rinviarvi però a pezzo in prima pagina e all'interno sui rimborsi della Tari. Come aveva detto il Losco Giannino, vi dovete un pochino, la Tari gonfiata, stiamo parlando di centinaia e centinaia di comuni italiani che hanno applicato la parte variabile dell'imposta anche alle superfici pertinenti, come non avrebbero dovuto fare. I rimborsi non partono, naturalmente, non li vedrete per chissà quanto tempo. Due mesi dopo il sistema è ancora fermo, impossibile l'indennizzo automatico, ma naturalmente lo Stato si comporta nei confronti nostri come noi non siamo, ed è anche giusto quello, abilitati a comportarci nei suoi, sugli obblighi fiscali. Ma Alessio, questa settimana su che cosa, su quali altre chicche vogliamo sottoporre ai nostri ascoltatori? È stata pubblicata martedì in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto fiscale, che è collegata alla legge di bilancio, e conteneva una serie di novità sulla rottamazione in ruoli. Evidenziamo subito che i termini erano troppo ristretti per una doverosa e capillare diffusione di tutte le novità da parte della gente della discussione. Nel sito loro, fino al 5 dicembre, era indicata la vecchia scadenza del 30 novembre, ignorando il differimento al 7-12 della terza rata o di tutte le rate omesse dalla definizione agevolata. Io dico che buon senso avrebbe reso auspicabile lo slittamento a lunedì 11 in fase di conversione. Spaccare il capello. No, aggiungendo solo il giorno lavorativo, Oscar, i contribuenti avrebbero fruito di ben 4 giorni per una pianificazione finanziaria grazie al ponte di Macron. Ho capito, ma sai, la scadenza era il 30 novembre, per loro fino al 5 dicembre era il 30 novembre. Poi la legge, purtroppo, non è stata una conversione tout court, ha portato numerose modifiche che, non essendo contenute nel decreto legge originario, non erano prevedibili. Questo ha generato incertezza nei contribuenti, che, dovendo essere estremamente accorti nell'amministrare le loro scarse risorse, hanno ovviamente si sono cautelati. Ricordiamo che il tasso di dilazione è il 4,5% annuo, sommato all'interesse legale dall'iscrizione a ruolo e spesso cumulato con i finanziamenti bancari cui non ho potuto ricorrere i fortunati in possesso di merito di credito. Tutto ciò è tradotto in tassi per i comuni mortali superiori all'11%. Quindi questo giusto per far capire, le informazioni del tempo scarno hanno reso per i ritardatari, che fino ad allora ex legge erano decaduti dalla definizione agevolata, assai cauti, e quindi sono stati, secondo me, e alla luce di quello che ho visto, sono stati dissuasi da rispettare le successive scadenze indicate nel piano di rateazione. Questo giusto per evidenziare quali sono killing condition, cioè i soldi non li trovano sotto i cavoli, e quindi vabbè. Passando alla definizione agevolata bis, troviamo purtroppo clausole ancora più vessatorie su cui dobbiamo mettere in guardia i proponenti. È stato dimezzato il termine della rateazione, ora di soli 7 mesi, ok? Rispetto ai precedenti 14. E inoltre i 3/5 della massima rateazione sono concentrati in soli 3 mesi. Ma lo Stato ha sete, ragazzo, ma è che vuol farlo settare? Settembre, ottobre, novembre 2018, quindi ricordiamo che il tardivo pagamento delle rate in scadenza comporta la decadenza automatica, e chi spera in futuri ripescaggi, secondo me, finisce come l'Italia nello spareggio con la Svezia. Quindi questo è il primo elemento. Abbiamo quindi realistiche previsioni, visto che facciamo gli auspici, di decadenza dei benefici. E su tale aspetto chiediamo di fornirci qualche statistica per evitare di illudere. Ma dai. Passando alle novità del maxi emendamento, perché ovviamente quello che cercavamo nei vecchi riferimenti l'hanno tutto sparpagliato, perché ormai un maxi emendamento, l'1.700 al disegno di legge di bilancio 2018, non ci fa neanche trovare più le cose. Si stanno posticipando tutti i provvedimenti a favore dei contribuenti. Ma è giusto, no? Stiamo protestando, è giusto, i contribuenti vanno bastonati. Mentre si stanno anticipando, o peggio, applicando retroattivamente tutti i provvedimenti avversi ai contribuenti. Ora, questa cosa che stai sfiorando adesso, cioè questa del proliferare delle interpretazioni retroattive, autentiche, a vantaggio dello Stato, è una roba incivile, cari ascoltatori. È intollerabile, perché è una delle manifestazioni più concrete di come nella produzione di normativa fiscale lo Stato, che si dà ragione da solo con interpretazioni autentiche retroattive a proprio vantaggio, è un truffatore seduto al tavolo. Non so se è chiaro, non è un eccesso mio definirlo così, è proprio una delle distorsioni massime che contraddistinguono oramai l'ordinarietà della produzione normativa tributaria. E quindi anche nel decreto ci abbiamo una bella serie di interpretazioni retroattive autentiche a vantaggio dello Stato, è vero Alessio? Sì. La prima interpretazione autentica, di cui non ho visto praticamente nulla in giro, è il reiterato abuso apportato al comma 9 articolo 1 il restringimento dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10% per i beni significativi. Attenzione, perché riguarda tutti: nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e isolamento conservativo, ristrutturazione edilizia. L'emendamento, alla luce di quello che tu dici da sempre, è un copia e incolla di una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la 12 del 2016, per cui l'aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Quindi, cioè, il problema qual è? I documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, tu lo dici da tempo, sono già testo biblico, e quindi l'interpretazione autentica è finalizzata, secondo me, unicamente a far saltare il banco dei giudizi in corso. Esattamente. Perché questo riguarda infissi esterni e interni, climatizzatori, hanno detto molto chiaramente che per quanto riguarda quello sono delle parti che devono avere autonoma rilevanza, quindi dobbiamo stare attenti: per gli infissi le tapparelle non si applica, per quello non si... proprio è volto a far saltare il banco, a mio modesto giudizio. Poi, vabbè, tornando al decreto fiscale collegato, il comma 11 contiene un'altra attacca al libero mercato. Questo, scusami, è un punto su cui presumo siamo tutti abbastanza sensibili. I comuni che tendono a affidare all'esterno funzioni e attività di supporto propedeutica all'accertamento e all'escussione dei tributi, proprio la Tari, la TIA di cui parlavi prima, dovranno rivolgersi a soggetti iscritti al cosiddetto albo riscuotitori, che non sono quelli che vanno a scuotere le olive qui in Sardegna. No, direi di no. Vengono di fatto eliminate tutte le micro società in house nei comuni che forniscono piattaforma informatica, servizio sportello, retrosportello, postalizzazione modelli F24 per tari e tributi comunali. E faccio notare che abbiamo l'ennesimo caso di eterogenesi dei fini in un provvedimento che è nato per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti locali. Sicuramente sconfortante. Dopo l'IVA sulla TIA, che è un altro argomento che nel dimenticatoio. Ah, no, anche perché anche lì i rimborsi dell'IVA sulla TIA la gente non li ha avuti. Però, detto questo, la sentenza della Cassazione, di cui tu ben sai, che hanno chiaramente detto che non doveva essere chiesto direttamente al comune, bensì alla società concessionaria. Quindi l'IVA al rimborso, tutti quei poveri contribuenti che erano andati per anni a chiederla al comune, invece c'è una sentenza, a Cassazione, sezione unite, che dice: no, fermi un attimo, ricominciate avete da capo. Sbagliato, non è mica il comune il responsabile. L'IVA, essendo una partita di giro, tributo armonizza, bla bla bla bla, dovevate chiederlo alla società. Comunque sì, io ve lo dico perché abbiamo avuto conferma, questo nasceva da una segnalazione dei miei ascoltatori che dicevano: ma è vero che adesso per la parte propedeutica, accertamento e riscossione dei tributi, io che faccio questo insieme a una società da anni eccetera eccetera con le norme del decreto non posso farlo più? Risposta, come avete sentito da Alessio, sì, è verissimo. Allora, solo alcuni esempi, noi dobbiamo essere precisi quando parliamo di norme tributarie, quindi io ringrazio Alessio, lo difendo di fronte agli ascoltatori, dice: no, ma sono troppo particolari, troppo tecnici. No, ogni settimana potremmo andare avanti un'ora piena di elenchi di norme, circolari, decreti, leggi che, come vedete, sono la conferma di quello che vi diciamo da anni: interpretazioni autentiche, retrospettive a proprio vantaggio, interventi lesivi di concorrenza in mercato su settori già strutturati e sono propedeutici all'attività fiscale, eccetera eccetera, norme a favore dello Stato che diventano più pesanti, precedenti norme a favore del contribuente che vengono dilazionate. Questo è il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio, oltre a quello che sapete già, cioè all'IRI che vi abbiamo detto e agli studi di settore che restano. Poi vi dicono che loro sono tutti campioni politici a tagliare, a diminuire le tasse, le entrate, la spesa. A tra poco. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le messe. Conti della Belva. Ed eccoci tornati qua in studio. Oscar, Mario, telefono. Adesso zitti tutti e due. Surplus, adesso siamo tornati il ciclismo dopo la Formula 1. Fantastico. Carlo Alberto, Renato, adesso siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi per quello che ci mettiamo per prendere la volata. Siete veramente fantastici. Allora, ragazzi, noi adesso parliamo di un tema che in questi ultimi mesi, per via del caso Weinstein, è esploso, direi, nella comunicazione pubblica. Secondo me giustamente c'è chi dice ci sono eccessi, si rischia di andare a un sistema in cui le vendette personali, ma insomma, com'è possibile? Stiamo parlando delle molestie e delle violenze sessuali in cambio di improprio esercizio di influenza per ottenere lavoro, contratti, eccetera, eccetera. E oggi vediamo come funziona nel nostro paese dal punto di vista delle tutele nel lavoro pubblico e nel lavoro privato, perché nel dibattito che si è aperto è arrivato anche a dire deve diventare una ragione per licenziamento casi di molestie e violenze sessuali nel lavoro pubblico nel nostro paese. Anche in quel caso ci sono state reazioni tipo però così diventa un facile strumento per vendette personali e cose di questo genere. In realtà poi continuano a fiorire episodi come quello, ripeto, del consigliere Bellomo del Consiglio di Stato, che è veramente al di là del bene e del male quello che si è letto di questa indagine del Consiglio di Stato, la sezione disciplinare aperto nei confronti del consigliere Bellomo, direttore di una scuola per la formazione giornalistica, in cui le studentesse, le borsiste anzi, venivano applicate a un regime di contratti di tutela della riservatezza, del fatto che dovevano comunicare i fidanzati, le caratteristiche dei fidanzati, attenersi a un dress code, quanti centimetri era la lunga la gonna, che tipo di calze, che tipo. Allora, detto tutto questo, in Italia continuano poi a esserci cose così, lo dico con una punta di, non voglio dire terrore, ma quasi. E allora, cari maschi, è inutile che ci nascondiamo e invece di gridare, questa è la mia opinione personale, all'eccesso di questa campagna, che sicuramente poi deve trovare delle forme di tutela, anche perché accuse infondate a distanza di anni non rovinino vite umane, questo non c'è dubbio, però il problema esiste ed è diffusissimo. I sondaggi, insomma, il numero di milioni di donne italiane che hanno subito episodi di violenza, di molestia sistematica, cambia molto dalle indagini sociali a seconda di come vengano fatte, però sono milioni e milioni ed è questa una realtà innegabile. Allora, io sono un po' curioso di sapere dai miei compari qui come la pensano. Intanto abbiamo una prima ospite che è la responsabile nazionale dei centri d'ascolto contro le violenze della UIL, Alessandra Menelao. Grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi, buongiorno. Naturalmente libera assolutamente di correggere qualunque cosa senta dire da me e da tutti gli altri, però vorrei capire una cosa. Nell'esperienza di questi anni, dei vostri centri di ascolto, l'esplosione di questi mesi è da considerarsi da parte sua una cosa del tipo A, finalmente si dà più evidenza a una cosa che era stata sotto traccia, oppure B, non vorrei che adesso l'eccesso di polemica pubblica comporti una specie di effetto boomerang tutela di coloro che continueranno a farlo, perché a un certo punto si fermeranno di fronte agli eccessi delle reazioni. Metto due posizioni molto diverse, come se fossero gli estremi di una forbice, ma sono, per cominciare, davvero interessato a capire lei come vive questi mesi in cui questo tema prepotentemente diventa un tema di dibattito pubblico, Menelao. Allora, io intanto la ringrazio della domanda e di aver posto queste due forbici, no? Da una parte la positività. Allora, io quello che ritengo molto positivo che paradossalmente le donne sono riuscite a denunciare, e tutto questo innovazione, come dire, che c'è stata sui giornali e sui mass media, la ritengo positiva e le spiego perché. Perché fino a poco tempo fa di molestia sessuale sul posto di lavoro nel nostro paese ne parlavamo solo ai convegni, solo nel seno del sindacato, e nessuno se ne occupava. È vero che poi ci sono alcune norme che poi vedremo, però era un tema molto nascosto. E questa esplosione io la ritengo molto, molto positiva. Io pure, però sono in minoranza, perché sentono... No, ma sono in minoranza, nel senso che il dibattito è accesissimo, la voglia di dire basta, questa è un'esagerazione, il mondo è sempre andato avanti così, del resto se non ti andasse bene non lo faresti, che è una roba che a me fa rabbrividire, perché l'improprio utilizzo del potere nel lavoro sia dipendente... Appunto, quella, io ho un... verifico tutti i giorni che questi casi sono purtroppo all'ordine del giorno e ne fanno sempre le spese le persone più deboli che subiscono le molestie sul posto di lavoro a causa di ricatti, di anche perché poi è molto correlato al potere che gli uomini fanno nei confronti delle donne, e i numeri nei nostri centri di ascolto sono elevatissimi. Noi abbiamo una forbice che va dal 10 al 15% di persone che ogni anno si rivolgono ai centri di ascolto e che subiscono molestie sessuali, perché poi le violenze sono altre. Certo. Le molestie sessuali sul posto di lavoro, e le assicuro che arrivano con una sorta di disperazione, perché tante volte le donne si sentono in colpa per quello che le sta capitando. No, ma poi prima di dirlo si fanno sottoporre a delle pressioni lunghissime. No, ma questo è capitato anche a me. Arrivano da noi, guardi, le assicuro, in una condizione psicologica devastata. Ma posso fare una domanda? Nella vostra esperienza e per come la pensate, per l'organizzazione per la quale presta il suo servizio, le norme esistenti nel lavoro privato e in quello pubblico, oltre che ovviamente nel codice penale, i termini di 6 mesi per dichiarare penalmente per instaurare insomma un procedimento, perché se poi passano i 6 mesi, come è appena successo dolorosamente questa settimana a un medico, poca settimana, esattamente proprio questa settimana è capitata una cosa di fronte alla quale uno dice vabbè, sì, ma non c'è la cosa d'ufficio, no, non c'è. Però detto tutto questo, le norme che esistono sul lavoro, quelle lavoristiche, secondo lei vanno bene o andrebbero cambiate? Allora, sul tema delle molestie sessuali io le cambierei, nel senso che noi non abbiamo una norma specifica sulla molestia sessuale. Lei fa riferimento all'articolo 600 del codice penale, ma lei sa benissimo che questo articolo è molto ampio rispetto a quello che è la molestia sessuale, tenendo conto che però noi abbiamo una norma che è quella della Convenzione di Istanbul in Italia, che è stata ratificata dal nostro governo e che all'articolo 40 parla proprio della molestia. Per il resto, sulle norme che ci sono sulle molestie sessuali, come dire, sono molto farraginose e io le cambierei. Io vengo in questi giorni da una battaglia sullo stalking che credo che lei abbia seguito, quindi io sono assolutamente per modificare queste norme, che non sono assolutamente a tutela delle persone che subiscono molestie. Questo vale sia nel pubblico che nel privato, perché le norme devono essere uguali per tutte le lavoratrici e i lavoratori che subiscono molestie. Questa è la mia idea su questo, e su questo faremo delle cose, perché non è possibile che le donne che con tanto coraggio, con tanta fatica denunciano e poi insomma non trovano adeguata attenzione facendo una causa o altro tipo. Insomma, ecco, allora io la pregherei di restare con noi, perché poi ci raggiunge dopo la breve interruzione Marzia Barbera, che è ordinario di diritto antidiscriminatorio all'Università di Brescia, proprio per vedere come si può cambiare al meglio, che cosa è giusto cambiare, nel senso che al di là della denuncia penale, al di là della denuncia penale, sui luoghi di lavoro che ci siano dei meccanismi che da una parte aumentino la tutela verso la vittima denunciante e dall'altra consentano la rimozione del problema a fronte di un risarcimento, secondo me servirebbero moltissimo, perché cambierebbero un po' la civiltà interna dei rapporti del lavoro. Però torniamo tra un minuto e lei resti con noi. Della Belva. Eccoci qua, tornati, molestie, violenze, ma soprattutto molestie innanzitutto su rapporti di lavoro, pubblici, privati. Io sono dell'idea che, a differenza della maggioranza dei maschi che conosco e considerano eccessivo tutto il fenomeno collegato al caso Weinstein, la caccia alle streghe, dico certo anch'io penso che non c'entri niente, per esempio levare le trasmissioni o i premi a un grande attore, se un grande attore si è comportato male da questo punto di vista, però cosa diversa è non continuare a ignorare che sui luoghi di lavoro queste cose sono diffusissime. Il sindaco di un capoluogo italiano con la signora a telefono per la cultura, in cui diceva vieni ti sculaccio e così, e che adesso tenta di derubricare tutto come se non fosse una molestia evidente, e questa roba qui, guardiamoci con le palle negli occhi, cari ascoltatori, non è diffusa in Italia? No? Solo a me è capitato di trovarmela in tutte le aziende in colore? Solo a me. Ecco, io parto da questo banale presupposto e mi chiedo se non dovremmo introdurre nelle forme ordinarie contrattuali di lavoro, al di là del diritto civile e penale, che ovviamente restano sullo sfondo e che si sono evoluti nel capire che cos'è, innanzitutto nell'interpretare che cos'è una molestia, ecco, e oggi si dice no, beh, allora anche una battuta è molestia, dipende, però già il fatto di dirla così vuol dire che siete favorevoli a un diritto acquisito che considerate in quanto maschi di fare battute. Ma detto questo, io penso che dovremmo introdurre nelle forme contrattuali di lavoro degli istituti automatici da questo punto di vista, per tutelare meglio i soggetti che sono vittime da questo punto di vista, e che io ho visto essere vittime, è capitato a mia segretaria, non con me ma con altre, è capitato da quando io lavoro, cari ascoltatori. Allora abbiamo con noi, oltre a Alessandra Menelau, responsabile nazionale dei centri di ascolto contro le violenze della UIL, Marzia Barbera, che è ordinario di diritto antidiscriminatorio all'Università di Brescia. Grazie di essersi resa disponibile di essere con noi, Marzia. Grazie dell'invito. Questa idea di partire dal diritto privato, quello pattizio, per dire mettiamoli nei contratti di lavoro e rendiamola una cosa ordinaria a tutela dei soggetti deboli, per incoraggiarli a dirlo, per non essere poi perseguitati dai colleghi, dai superiori, che possa finire con un incidente serio di carriera a chi lo fa quando esce pubblicamente la cosa, è sbagliata e velleitaria secondo lei? No, anche perché non partiamo dall'anno zero, cioè adesso di molestie sessuali si parla molto, ma questo è un problema di cui per esempio il sindacato o i giuslavoristi come me o le aziende si sono occupati già da parecchio tempo, e quindi non partiamo dall'anno zero. Noi abbiamo anzitutto una definizione legislativa di molestia che non riguarda le molestie che costituiscono un illecito penale, quindi noi siamo sul piano del diritto civile. Usare il diritto penale non sempre è una buona idea per cambiare i costumi sociali. Però invece c'è una definizione di molestia che vale proprio nei rapporti fra i privati e che distingue nettamente i comportamenti personali, che possono essere scherzosi, amichevoli, il corteggiamento eccetera, dalla molestia. Quindi non è così difficile distinguere, perché il contesto dice tutto. Dice molto, a volte dice tutto su che cos'è una molestia e che cosa non lo è. Quindi noi partiamo già da una definizione che dice tutte le cose essenziali. Se volete la ricordo, oppure la diamo per conosciuta, mi dica lei, non so. No, questo io sono interessato di più a capire come si può cambiare dal punto di vista lavoristico la faccenda e contrattuale. Allora, posto che la definizione di molestia c'è e come dico si riferisce a comportamenti che sono umilianti, che sono offensivi, che offendono la dignità della persona, nella sua percezione soggettiva, quindi diciamo che l'intenzione di chi fa una battuta non conta molto, perché in genere ci mancherebbe, si pensa di essere divertenti. Esatto. Allora, posto ecco, questo... Però la cosa importante non è tanto stabilire nuove regole, perché quelle ci sono, ma stabilire procedure per essere ascoltati, perché uno dei problemi per chi subisce una molestia, che fra l'altro spiega perché per esempio alcuni fenomeni, alcune storie sono emerse dopo così tanto tempo, perché altrimenti non si capisce, no? Perché a distanza di anni si parla di alcune cose, e questa sensazione di isolamento, questa sensazione anche a volte di aver provocato certi atteggiamenti e soprattutto non saper che fare. Allora, dicevo, qui non si parte dall'anno zero, perché sia nel settore pubblico che nel settore privato Anzitutto ci sono dei codici di comportamento. Su questo vorrei dire una cosa. L'idea un po' nordamericana che bisogna stabilire un decalogo di quel che si può fare o non si può fare, secondo me non funziona tanto, perché quello che bisogna cambiare sono proprio costumi, modi di essere che, vogliamo dirlo, sono sessisti, perché le molestie hanno a che fare col sessismo, come ricordava lei. I luoghi di lavoro sono ancora intrisi di sessismo. Quindi un codice di comportamento anzitutto deve trasmettere in maniera molto chiara, molto precisa, il fatto che in quei luoghi di lavoro le molestie non sono ammesse. Quindi è una dichiarazione di politica aziendale, di politica dell'ente pubblico, rivolta a chi andrà a lavorare in quel luogo. Ho capito, ma questo poi si dice e non si fa. Cioè, a me è quello che interessa, il meccanismo concreto. Le faccio gli esempi. A me è capitato allora, di lavorare. Io non la voglio contraddire. Si dice o non si fa, ma innanzitutto sapere che in un certo luogo di lavoro certi comportamenti sono accettati o non sono accettati, questo già è importante, perché dice qualcosa sulla cultura di quel luogo di lavoro. E poi la cosa fondamentale è assicurare a chi è molestato di avere delle procedure e dei soggetti a cui rivolgersi. Allora, come dicevo, ci sono già in molti luoghi di lavoro, in tutti gli enti pubblici per esempio, ci sono dei codici sulle molestie dove sono previste delle procedure formali e informali anche per riportare le molestie. E poi ci sono dei soggetti che si chiamano consigliere di fiducia. Per esempio nella mia università, che è l'Università di Brescia, è stata nominata qualche mese fa una consigliera di fiducia, ed è così in molti luoghi di lavoro. Forse nel settore privato quello che bisognerebbe fare è esattamente questo, cioè prevedere che cosa è possibile fare quando io penso di avere subito una molestia. Beh, veramente il punto. Quindi, come vede, lei dice: no, le cose ci sono. No, guardi, no, sì, posso dire? Sono. Ci sono, ci saranno, benissimo. Senta, ripeto, le faccio un esempio, per esempio, uno dei tanti che mi è capitato nella vita. Non faccio nomi perché capirà la delicatezza. In uno dei giornali in cui ho lavorato, le riunioni di redazione dove si facevano le notizie erano conditi con commenti umilianti per le redattrici, alcune delle quali, quelle che ridevano, avrebbero fatto carriera, le altre no. Allora, mi dispiace, in quella impresa lì non c'era nessuna possibilità per chi non subisse facendo carriera di dire a qualcuno no, scusate, perché sarebbe saltata per aria in 5 secondi. Io non credo di aver vissuto da solo questo l'eccezione. A me è capitato spessissimo, in questi termini espliciti, neanche rivolti al contratto personale tra il superiore e la dipendente. È proprio un codice, per così dire. Quindi dici, ma noi mettiamo nel codice, non si fa. No, il problema è quando succede, e addirittura in pubblico, che cosa si fa? Ecco, io ho questa impressione. Nel privato non ci siamo ancora. Renato, ci farei, tu sei imprenditore. Non ti chiedo nella tua impresa, te lo chiedo da uomo imprenditore, dopo decenni di tua esperienza imprenditoriale. Bisogna cambiare, secondo te, qualcosa nelle aziende private su questo, in termini di tutela, canale ordinario a cui rivolgersi, al di là ovviamente che possono fare esposto penale, civile e così via, però sto parlando del mondo dell'azienda. Secondo te è infondata questa mia sensazione? Ma la mia sensazione è che abbia ragione la dottoressa quando parlava di un cambio culturale più che di un cambio di regole. Cioè, le regole ci vogliono, però quello che deve cambiare è la cultura, perché sennò diventa un po' come spiegavi tu, cioè molto spesso la gente non se ne rende neanche conto del fatto che magari sta usando un linguaggio che non va bene, oppure che sta usando il proprio potere in modo distorto, perché è così. Cioè, se noi facciamo un salto indietro e andiamo a vedere cosa accadeva, che ne so, 100 anni fa, da quanto però leggiamo nei libri di storia, le mondine, tanto visto che io sono da molto vicino, sì. No? Tu vedi che c'è stato, cioè quello che è cambiato è la cultura. Allora, quello che noi dobbiamo insegnare è insegnare fin dalla tenera età ai ragazzi il rispetto per diciamo gli orientamenti rivoluzione culturale, però ragazzi, la rivoluzione culturale ha tempi lunghi. Io spero. È evidente che le aziende, Oscar, in questo momento tutte stanno avendo un occhio di riguardo per quelle cose lì. Cioè, su questo credo. Quindi partiamo che dal presupposto intanto che quello oggi, che è successo allora, è positivo. Ci siamo orientati sulla sicurezza. Credo che il prossimo trend per le aziende, soprattutto grandi, sarà quello di questi problemi di gender diversity. Diciamo. Esatto. E secondo me la contrattualistica dovrebbe dedicare più attenzione a queste cose qua. Allora, intanto, grazie ai nostri ospiti, noi torniamo tra un minuto per la chiusa. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Allora, abbiamo avuto insomma due ospiti che avevano soddisfatto, per carità, ma non troppo, perché il formalismo su queste questioni, c'è tutto a disposizione, ragazzi, non spiega allora perché ci sono questi guai ancora così diffusi, e per carità ci sarà tutto nell'ordinamento, però la risposta non può essere nemmeno aspettiamo la rivoluzione culturale, Carlo Alberto, cioè il problema è che c'è qualche cosa secondo me che ci manca nel nostro rapporto tra privati su questo tema, su cui evidentemente vige l'ipocrisia. Però non lo so, tu come la pensi, Carlo? Migliore sia quella sociale, non quella giuridica. E come stiamo introducendo forme di giudizio sui colleghi, per esempio tramite piattaforme come LinkedIn, no? Che, nei quali ciascuno di noi riceve un endorsement o una critica da parte dei colleghi che frequenta, io penso che la sanzione sociale sia la più efficace. Sinceramente, quando sento la parola cultura, la mano corre alla fondina della pistola, perché è un modo perfetto per rinviare il tutto alle calende greche. No, io sono convinto che serva trasparenza e responsabilità, servono premi e punizioni ben prima di quelle legislative nel contesto sociale organizzativo. Le aziende che promuovono la peer-to-peer evaluation, perché c'è una tecnica organizzativa, cioè la valutazione tra pari, oltre che quella verticale, sono quelle più trasparenti in questo senso. Se c'è qualche segnalazione, anche in modalità anonima, da queste cose emergono. Scusa Carlo Alberto, Carlo Alberto, io quando intendevo culturale intendevo quello, cioè la questione sociale, cioè una questione che allora però ci siamo capiti. Sociale, no, perché noi cioè, non è i suoi figli, i nostri figli e i nipoti. No, io dico, cioè, allora adesso dobbiamo lavorare sicuramente su figli e nipoti, però così come negli ultimi anni le aziende che non seguono la sicurezza in un certo modo sono state penalizzate da chi ci va a lavorare, quindi fanno fatica a trovare talenti, così dovrebbe essere nei prossimi anni che le aziende che non si dotano di sistemi adeguati per garantire che non succedano problemi di questo genere, che tra l'altro, Oscar, ti devo dire, anch'io nella mia vita ho sentito parlare, cioè fai colloqui di lavoro, fai incontri le persone, magari ci entri in confidenza, anch'io ho sentito di ogni, diciamoci la verità. Ma è una cosa diffusissima, là di quello che uno possa pensare. Appunto, cioè, Mario, stavi dicendo. No, io stavo dicendo, capisco una sorta di peer review, come diceva Carlo Alberto, cioè la gente mette apprezzamento o biasimo per determinati comportamenti, eccetera. Però attenzione, perché secondo me in alcune circostanze il sistema di incentivi, il sistema premiante del contesto di lavoro, ho qualche dubbio che vadano ad incentivare questa sorta di like o dislike, perché noi vediamo quello che è successo a Uber, no? Cioè l'apocalisse è successa a Uber. Certo, potreste dirmi che però ora ne sono venuti a capo, adesso hanno il diversity manager, hanno tutte queste commissioni interne, eccetera eccetera, però a Uber c'era l'inferno, per cui io direi non sono ottimista come Carlo Alberto, nel senso, secondo me è un problema culturale, però all'interno del sistema social bisogna stare attenti, perché a volte non sono i valori, come dire, umanistici che noi promuoviamo ad affermarsi, se ne affermano degli altri, il sistema di incentivi è distorto in quella direzione. Ciao Alberto. No, è evidente che ci sono dei rischi, però è sempre meglio muoversi e prendersi qualche rischio, poi correggerlo, che far finta di niente o appellarsi all'intervento dello Stato. Dal mio punto di vista, quello sia super è la dimostrazione che quella è la strada giusta per far emergere i problemi, per affrontarli in maniera quantitativa, perché altrimenti rischiamo di ingigantirmi. Secondo me così abbiamo la fotografia quantitativa, abbiamo la mappa di questo, di quello che succede. Devo dire che sono ottimista, semplicemente ricorro a quello che vedo come strumentazione disponibile per affrontare il problema dal basso, cioè come responsabilità dell'organizzazione e non semplicemente come delega all'autorità pubblica. Per me il vero problema è la presa di coscienza manageriale, organizzativa di questo fenomeno, e chi ha volontà di affrontarlo, vi assicuro che oggi ha strumenti per farlo. Strumenti imperfetti, con limiti e con quadrati, ma non devono rappresentare una scusa o un alibi per non fare nulla. Io penso, per esempio, la dico fuori dai denti, che nelle aziende, cominciando da quelle grandissime, grandi, medio grandi, medie, la figura di tutela di una lavoratrice sottoposta a molestie non può essere interna. E questo significa, per esempio, che è problematico immaginare che sia molto efficace, caro Alberto, in un paese in cui i sindaci, i revisori dei conti, gli internatori delle banche hanno messo firme su cose che non stavano né in cielo né in terra. Mi viene da sorridere all'idea che se qualcuno denuncia un vice direttore o un direttore per molestie, chissà cosa succeda. Hai capito? Perché so già che non è vero. Perché la molestatrice starà zitta, perché dirà: ma mi uccidono a me, ma figurati se fanno qualcosa a quello, i suoi colleghi che fanno la stessa cosa. Quindi, è un'obiezione che giustifica l'omertà. Non posso accettarla. No, ma siccome sono terrorizzato dall'omertà, però ho visto che funziona così fino a questo momento. Fino a questo momento, è per quello che è compito precipuo di ogni buon manager, imprenditore, mettere in condizioni con metodi trasparenti e controllabili, perché altrimenti rischiamo invece l'effetto la caccia alle streghe. Questo è l'altro rischio, ovviamente, che è quello che sta avvenendo. È inaccettabile, meglio prendersi qualche rischio e fare qualche errore rispetto a stare zitti e lamentarsi con la mancanza di legge. Questo lo trovo mi pare di capire che neanche noi però siamo riusciti a dipanare la questione, perché capita, è una questione delicata, slippery, scivolosa. Poi, se posso permettere, Renato, devi. Qualche caso è successo anche che la risorsa era talmente importante per l'azienda che tutti sapevano e nessuno faceva niente. Esatto. Detto proprio dai. Come si vede, quindi stiamo abbracciando una tale molteplicità di ipotesi tra il soggetto troppo debole che non parla, quelli che condividono la cosa e quindi si coprono, tra magari quello di cui tutti sanno ma è troppo importante. Come vedete, in realtà il caso Weinstein ci rimette con il naso su una roba maleodorante. Io, da questo punto di vista, è vero, ha ragione Mario, siamo alla caccia di streghe agli eccessi, però ho porte su scandala, perché c'è poco da fare ed è una cosa permanente ancora della nostra vita lavorativa, questa roba qua. E l'imprenditore per primo, i suoi manager, questa roba non gliela dice, perché siamo nell'ipocrisia. Questo è il classico tema che non si tocca mai, Renato, mi sbaglio? Ma no, non è vero che non si tocca, però è molto delicato, perché poi anche se tu vieni a sapere delle voci, andare da una persona e affrontarla a muso duro, a me per fortuna non è mai capitato, devo dirti la verità. Però sono strumenti di codici etici da far sottoscrivere al manager, a posizione in responsabilità apicale, no, certo, che va rispettato. Questo fa di in un'azienda seria, questo fa l'interna audit, prende il codice etico, lo sventola davanti a chi ha anche soltanto, come dire, un indizio di responsabilità. Carlo Alberto, chi ha la delega in un'azienda interna audit è il primo che viene cacciato se lo fa. Carlo Alberto, so di cosa parlo, ti posso garantire. Cioè, è per questo che io dico: o c'ha una struttura esterna di supporto, oppure va, fa le valigie, trovano il primo incidente in 5 giorni per mandarlo via. Io ho questa esperienza qua, magari mi sbaglio, Mario di fronte a me se annuisce. Però come vedete valeva la pena parlarne apertamente, non c'è la soluzione ma il tema ci esiste, torneremo. Esiste e come grazie a tutti voi, continuate su Radio 24, appuntamento con me lunedì mattina alle 8:15 su 24 Mattina, me e Luca Telese.